diretta da Bunga Bunga Island, va ora in onda Opencast Alpha. Opencast, puntata numero 6, la settima puntata, siamo preparatissimi questa volta, ci siamo documentati bene sul numero e su tutto quello che ho fatto, che le tacchette. Hai segnato tutto? Tutto. Bravo. E lasciatemelo dire, la musica di Opencast Alpha ci sta sempre più dentro. Questa sera ospite speciale con noi abbiamo, attenzione, fiato alle trombe ai fiati, lo presenti tu Fabrix? Abbiamo qui con noi un amico. Ah, e tu hai detto lo presenti tu, lo presento io. Se no lo presento te. Vuoi presentarlo te? Se no lo presenta lui. Cosa fai tu? Io farei così, facciamolo presentare a se stesso. Si presenti. Buonasera. Bin. Mi chiamo Bin. Bin. Se lo lanciate in SH è una bomba. Rimasto lì così un po'. E sono figlio di Ario. Ah. Aspetta. Bin figlio di Ario. Ma dove l'avete trovato? Non so cosa vuoi. Ario Bin. È stato coso qui. No, coso non c'entra Ario niente. Bin, no, è stato Loris. Io non sono stato. Beh, ve lo dico. Allora, mio papà è praticamente fa parte di un listato. Qua, io aprirei un complicata, complicata. Aprirei questo, questo, a questo punto aprirei tra un contest per i nostri ascoltatori. Per chi ha capito chi è il nostro il nostro ospite misterioso, tale Bin, figlio di Ario, ci può scrivere al nostro indirizzo. Il nostro indirizzo che non c'è, opencast@gmail.it. Potremmo anche aprirlo, effettivamente. Abbiamo un numero di telefono. Abbiamo un numero di telefono? SMS, Ah sì? 338-44-88-72-593 asterisco. Eh sì, sicuramente arrivano a noi. Cancelletto finale, già finale. Che ci siamo. No, giusto. Asterisco, punto, asterisco. Punto. Punto. Un cancelletto, ah, no, un gate. No, finiva con la virgola, me lo ricordo. Ma io mi ricordo che alla fine, dopo il 4400 che hai detto, c'era Jack. Jack, c'era 4400 Jack. Basta. E poi c'era il cancelletto, così non si entra. Così non si ragazzi, esce. Occhio, perché qua esce fuori qualche codice di lancio missilistico. Veramente. Ci intercettano, siamo fregati. Vabbè, ragazzi, cominciamo su. Come fate a saperlo? Da come è iniziato la puntata? Di sicuro ci intercettano. Si fa fatica, Cettano. Cettano. Allora, il signor Binario è qui con noi questa sera, siamo ben contenti di, cioè ci sentiamo su, come dire, un pezzo de ferro, Binario, una roba, insomma. Ma che avete capito? Bin, figlio di Ario. Bin è figlio di Ario. E papà era un listato. Era listato. Righe di codice dove stanno? Infatti. Qua ragazzi ci stiamo addentrando in un mondo veramente... Scusa, io la riga di codice la porto sempre a destra. No, quella riga di codice lì, dai. Cioè, risate, grazie. Molto gentili. Ma siamo qui anche per dare delle notizie. Sarà successo qualcosa dall'ultima puntata, dall'ultimo Opencast? Saranno passati 6 mesi ormai. Un paio di settimane, una cosa così. Di cosa ci vuoi parlare, Coso? Beh, Coso vorrebbe parlare di Moto Arm. Ma tanto non ci interessa. A me moto sì, a me moto sì, moto sì. Sì, ma non è la moto che interessa a te. È un nuovo aggeggio Motorola che dovrebbe uscire, il Droid X2. Così, tanta roba? Così, un robottino. È un robottino, è un Android. Ah, uno di quelli che fanno la polvere in giro per casa. Allora, io ce l'ho, Ha un paura, faremo una puntata speciale sui robot aspirapolvere. A me fa paura veramente quella cosa. Sì, lì. Sì, soprattutto anche al mio gatto. No, anche perché guardi la tele e lui ti passa sui piedi, magari fai i baffi al gatto. Sotto. No, ma il gatto poi si abitua a salta. Magari sopra. Si monta il gatto. No, come fa a montarsi il gatto? Cosa ne so, no, il gatto, no, il gatto lo monta, che lo monta di solito. Infatti. C'è in giro. Ma è antigatto questo, l'hanno fatto apposta. Perché? Cioè, se il gatto gli va sopra, lui scossa. Dalla scossa. Sì, il gatto fa come quando vede un cane, cioè rizza il pelo. Comunque, allora, ragazzi, io stavo parlando di cose serie. Qui si parla di un dispositivo, di un aggeggio che ha. Allora, mo te lo descrivo così tu capisci. Ha un display. Poi. E là. Aspetta, mica pizza e fichi. Un microfono. E là. Una cassa. Una. Mono, comunque è stereo, perché adesso no. Ci sarà un po' di coda, però, perché è una cassa. Una cassa. Sì, dipende dal numero dei clienti, Anche quello è vero. Appena uscito, non lo so io. Comunque è un telefono, ci potevi arrivare, non è che... Ma lo so che adesso è un periodo, c'è un fermento con questi telefoni, adesso tutti quanti che sparano fuori i telefoni, ma quali questo sono le caratteristiche peculiari di questo telefono? È un signor telefono. Ma cosa ti sei comprato te? No, io ne ho preso un altro, infatti... Grazie signor Motorola. No, comunque l'ha pagato lui. Allora, possiamo dire una lancia? La vogliamo spezzare questa lancia? Spezziamoci la lancia. Cioè, Motorola, secondo me, dal punto di vista hardware, poverina. Dal punto di vista hardware ha fatto sempre degli ottimi terminali. La carenza negli ultimi tempi è stato il software prima dell'adozione di Android. Ma guarda che adesso stiamo parlando comunque di un processore dual core di un Tegra. Tegra. Virgola. Tigra. Okay, io ho la virgola. Virgola. Comunque, punto. Da un gigahertz. Da un gigahertz. Un gigahertz. Dual core un gigahertz. Cioè, chi è che trova un dispositivo portatile con un processore con delle caratteristiche migliori? Samsung Nessuno. Wave. Un giga di processore anche lui. Sì, ma non dual core. Allora. Oh, Ciccio Bello, ma sai il comparto grafico di questa macchinetta qui quanti milioni di triangoli fa? 3. No. Allora, un iPhone fa 28 milioni sicuro, no? La PS3 ne fa 250 milioni, quindi pensate un po' alla potenza di questi trappolini qua. E il Samsung Wave invece ne fa la bellezza di 90 milioni, un terzo della PS3. Ragazzi, scusa? 90 milioni? Sì. Scusa? Cioè uno c'ha 3 Samsung di questi qua e fa praticamente la potenza di calcolo di una PS3, ma roba da matti. Scusate, bell'uomini, scusate se mi andrò a mettere nell'argomento. visto che qua voi siete veramente al cretaceo del cellulare, del dispositivo embedded, perché non so se avete sentito l'ultima, signori. Ma l'ho detta io l'ultima. Ma che ultima è ultima? Qua, quale dual core? Siete antichi, siete troppo retro, siete veramente cretaci, giurassici. Sì. Ma che ve lo dico a fare, giurassici? Siete paleozoici. Giurin giuretta. Andiamo a vedere. Che cosa vi voglio dire? Ragazzi, la PSP di nuova generazione avrà un processore, una CPU quad-core ARM. Allora, non si conosce la frequenza operativa, però, signori, stiamo parlando di un quad-core con relative ottimizzazioni, presumo, vista l'architettura, ma non soltanto in ambito CPU, bensì anche... Indovinate un po'? Indovinate un po'? In ambito GPU, anche la GPU quad-core, quindi più... 8 core, ragazzi. Vabbè, ma non è più portatile, allora sarà una cosa è enorme. Portatilissima. Ha una bella resistenza, 8 cuori. Ha un display da 5 pollici OLED. Attenzione, Non AMOLED, no, è OLED. E Samsung Wave invece c'è l'AMOLED. AMOLED, questi. Sì. Questi sono un po' indietro perché nella Sony ultimamente c'è un po' di astio. Mentre a Samsung c'è più amore, AMOLED. Niente, Sony invece è OLED. Cioè, rimane così. Ma torniamo ai triangoli, alla gnocca. Guarda, cioè, al triangolo, quanti milioni di triangoli fa? Io non lo so quanto ti sposta, però vi invito ad andare su internet, ci sono già dei video. C'è un video dove si vede Uncharted, che è un gioco di punta per PlayStation 3, e gira praticamente come se fosse su PlayStation 3. Chiaramente la risoluzione nativa della di questa Next Generation Portable NGP, come è stata nominata temporaneamente, si pensa, è di 960x500 e qualcosa punti. Si va al risparmio, insomma. L'unico problema, a mio avviso, è che ci vorrà una piccola centrale termonucleare per alimentarla. E già, come hanno risolto la batteria? Ci sarà una batteria da alimentazione, 8000 mAh minimo. 4 core, anzi 8 core, 4 no, GPU. Diciamo che il display OLED dovrebbe permettere un consumo abbastanza contenuto. Vero. Poi bisogna anche vedere i giochi come verranno sviluppati. Secondo me non tutti sfrutteranno il gioco. Chiamiamo Sony, gli diamo sta dritta, non ti preoccupare, ce ne manda. Noi gli mettiamo un bel tasto, spegni schermo. Cioè, riduciamo un casino i consumi. Assolutamente sì, si può sentire anche solo con l'audio e con il touch. Perché volendo, ci sono ben due touch. Ma io adesso, perché tu mi hai detto sta cosa, sono andato adesso a cercare su internet. Dacci un po' queste caratteristiche più avanzate. Per bacco, cioè, hai quasi ragione, infatti non ci credo. Quasi. Un quad-core ARM Cortex A9, quindi un bel processore. Ma è la GPU che mi spaventa veramente. Una Power VR, cavolo, c'ho anche la sigla, SGX 543 MP4 più virgola. Più virgola? C'è anche la virgola. Addirittura? C'è anche la virgola. Perché sì, non è finita lì, infatti continua. Cacchio. Continua. C'è un sistema di sensori Sony a 6 assi, giroscopio che gliene girano 3 proprio, no? Sì. Chissà per come mai. Sarà incavolato con l'amorosa. Come 6 assi? Sì, sì. Ma perché c'ha il giroscopio a 3. C'ha l'accelerometro a 3 assi. In più, se ti perdi, ha la bussola elettronica a 3 assi. Il bussolometro? Il bussolometro. Ah, guarda che se ti perdi stai a cavallo per le prossime... 10 minuti. 40, 10 minuti. 45 minuti. Ma 10 minuti. C'hai ma la bussola. Voi non capite niente. Voi non avete seguito le vecchie puntate dell'Opencast. Voi vi ricordate... Ma vi ricordate quando abbiamo parlato delle batterie, quelle che si indossavano? È vero. Tu ingrassi come un porcello, perché se vi ricordate funziona anche col calore, col sudore. E poi potete giocare quei 10-15 secondi in più con la PSP di nuova. Non solo, maestro, hanno inventato le batterie che si ricaricano camminando. Sì. La batteria. Attenzione! Arriva presidente di Sony. E chi l'ha invitato? Ah, scusate il mio italiano. Io volere dire solo una cosa. Noi stiamo lavorando ad hardware più potente di tutti i tempi, portatilo. Sarà grande prodotto. Offriremo a prezzo di grande pubblico 13 milioni di yen, corrispondenti 799 euro. Comprate tutti quanti. Crisi non c'è. Vogliamo tutti. Portatilo. Potente. Questo è futuro. Così ogni tanto arrivano, si intromettono. Ma ce ne ha portate almeno una cassa? No, niente. Ma che vergogna. Ma secondo me questi hanno sfruttato la DSL di Telecom, ragazzi. Per arrivare fin qua. Sì, Cioè, sì, proprio fisicamente. Sì, sì. Quindi, lui, nuovo è da un mesetto che è in giro, quindi. Insomma. Ah, sì. Adesso che corre voce che insomma va di brutto. Cioè, che insomma ne vengono tante. Sì, corre, corre. Cioè, corre. Va. Ma corre pare un paio 3 di gigabit riesca ad arrivare. Se, non in fibra, ovviamente, in doppino. A me è passata da 7 a 4 così. Chilo, mi hanno beccato che scarico ISO Linux tutto il giorno, è una cosa incredibile. Ma io perché c'ho lì un muletto, adesso devo provare tutte le distribuzioni. Guarda che è illegale quasi. Cosa? È quasi illegale. È quasi illegale scaricare. Tu da dove scarichi? Dai BitTorrent come minimo. Bravo, vedi, anch'io ho sentito questa cosa. Tu scarichi hanno oscurato Torrent su, sì, Google, se non erro. Sì, eh? Perché tu... Cioè, hanno oscurato sulla ricerca quella avanzata. Una cosa che odio. Sì, sì, sì. Allora. Allora, per piacere. Scusa. Allora, qua c'è un dibattito. Hai detto BitTorrent? Bit, virgola, torrent. Ah. Deve essere un tuo parente. È binario. Questo bit sarà il cugino. Comunque, già una cosa che odio, che quando io scrivo le cose in Google, lui... Che stavi cercando? Che dico? Oh, ma fatti i cavoli tuoi! Cioè, ma so io quello che sto a scrivere. Bravo. Poi, metti che io scrivo Jessica, perché mi devi scrivere Jessica la biondona? E se io cercavo la bruna? Infatti, che cosa fai? Per non parlare di sto cavolo di safe search che è sempre attivato, lo devo sempre disattivare per le mie ricerche scientifiche. assolutamente. Cioè, comunque, quando vai a cercare quanti triangoli fa il secondo. Io voglio la internet vera, signori, è con il safe search assolutamente disattivato. Bravo, ecco. Bravo, bravo, bravo. Quasi quasi lo voto. Votatemi e vi trovo un safe search disattivato a ognuno di voi. Ma scusa, ma comunque, mi interessava il discorso che facevi. Stavo tu. Dicendo sì, che Google, quando tu scrivi le cosettine, ti propone delle cose del tipo tu scrivi cac e lui ti dice cacca, sì, e tu dici cavolo, vabbè, sarà cacca. Va bene, cerco cacca, cosa devo fare? Cercavo case in montagna, ma se lo dici tu Google, vabbè. Adesso se voi provate a scrivere bit o qualcosa del genere non vi caga neanche per striscio, neanche sciario, niente. Ma questo con un bel po' di roba del tipo col rapid share, mega upload, certo, tutta roba un po' fuffa, comunque c'è, usiamola, no? E il problema è che se tu fai la ricerca con BitTorrent poi te lo dà come risultato, però hanno detto facciamogli fare quei 2 o 3 decimillisecondi in più di sforzo per trovarlo, e il signor BitTorrent si è un po' arrabbiato perché ha detto noi col nostro sistema distribuiamo anche software libero, perché adesso molte distribuzioni Linux ti permettono di fare gli aggiornamenti e di scaricare anche le ISO direttamente tramite BitTorrent. Così non è. Quindi bello. Scusami, mi stai dicendo che la funzione di ricerca automatica di Google su certi termini caldi, mettiamo così, è stata disattivata. Se io non la uso e faccio l'invio alla fine della ricerca, li trova comunque. Sì, risultati. Sì, per ora sì. Però se invece mi loggo e comincio a fare usare la funzione di ricerca automatica, certo, lui non mi suggerisce più BitTorrent. Scrivo Bit, mi dirà Bit il cugino di Bin. Bitto, il miglior formaggio della Valtellina. Allora, noi siamo del consorzio del Bitto e volevamo dire che siamo molto contenti di questa presa d'iniziativa del Gogolo, e basta, insomma, va bene così per l'economia della Valtellina, viva il Bitto, il formaggio. Cos'è che mi stai dicendo? Ah, scaricate il Bitto, anche perché noi ci abbiamo la schiena un po' rotta fuori di scaricare tutti questi anni. Grazie, arrivederci. ma la vuoi chiudere sta porta? Cioè, ascolta, qua arriva cioè, gente, tu invece di mettere, cioè tu metti Bing, lui la G non la vede perché Bing è il motore di ricerca di Microsoft. Ma io e non vanno d'accordo, non lo so. Vabbè, su questo dubbio e sul contributo molto interessante che la comunità montana ha voluto darci questa sera in questa puntata di Opencast, io farei una pausetta musicale così giusto per e vediamo di chiudere la porta e chiudiamo la porta perché insomma tutta questa gente che gira sono lì a scaricare il furgone qua fuori, hanno portato un po' di roba per noi, per cui... va bene, andiamo in pausa che è meglio. I wanna do my own thing but I think I follow the trend. It's been suggested maybe I wanna be your best friend. Yeah, yeah, blind in my eye holes and just tried hard to see. I can tell by your middle finger that you're warming up to me. Yeah, yeah. Satisfaction, yeah. Satisfaction. guys. Ciao, sono Babbo Pasquale. Anch'io ascolto Opencast Alpha. Siamo tornati dopo questa breve pausa musicale. Abbiamo ascoltato Bad Attraction, un pezzo di... Finisci con queste sigarette che siamo in onda. Arrivo. Un pezzo di Brad Sachs remixato da Woody. Potete trovarlo su CC Mixter. Poi sul nostro sito www.gl-como.it troverete tutti i link e le informazioni necessarie per recuperare news e musica. Su chi è che lo troviamo? ccmixter.org. Ricordo che è versione com di CL Como cinese. Sempre avanti CL Como. Ricordo. È sempre cinese la nostra versione. Non il nostro dominio.com. Ah, non l'abbiamo più comprato. No, ce l'hanno no, comprato. Il punto .net era. Forse era il punto .net. Ah, il punto .net. Sì, ma forse sì. Anche punto .com. Punto .com è .org. Forse stanno cercando di vendere il lago. Boh, non lo so. E quindi. Il canale di Panama. Ma attenzione, a proposito di canale di Panama, di fiumi e di passaggi sui ponti, poniamo il caso, vogliamo fare un approfondimento. Poniamo il caso che io da una parte di un ponte a un altro voglio mandare un messaggio. Che possibilità ho e come lo posso fare per non farmi beccare dalla gente che ci potrebbe essere sotto il ponte con la barca che ascolta? Gianni! No, così non funziona. Ma siete indietro, ragazzi. Allora, chiediamo al nostro ospite segreto, Bit. Bit, allora, cosa fare? Ci sono due possibilità. Una, crittografarlo, no? Ma però, crittografandolo, cioè una terza persona vede che io sto crittografando, o meglio, un messaggio crittografato che manda una terza. Certo, tu stai facendo dei segni dall'altra parte, qualcuno dice, guarda questo, che cazzo sta facendo? Tieni il corn! Vedete, il testo in chiaro viene trasformato tramite cosa? Un procedimento tematico. Ah. Manuale. L'algoritmo, no? Ah. Sai cos'è un algoritmo? Non sono un esperto. Poi mi restano pesanti e non ho i piatti della Wolfgang. È che in una sequenza di lettere, numeri o anche simboli, perché ci sta pure il cancelletto di prima. E se ci metto lo spazio? Anche. Cioè, in questo caso riusciamo a mascherare il significato di una stringa. La persona a cui io mando il messaggio sa che io ho sostituito la A alla Z, supponiamo. Sostituendo la A alla Z, lui fa ritornare il messaggio come quello che avevo pensato io. Tutto lì. Ma così ti sgamano subito. E infatti. Per questo c'è la steganografia. Steganos in greco vuol dire nascosto e grafia vuol dire scrittura. Quindi tu puoi scrivere per esempio su una forma di bitto. Bravo. E poi chi la mangia. Giusto. Offresi bitto e alloggio. Cioè il bitto era intrinseco che era offerto. Però l'alloggio no. E quindi l'alloggio non c'entra niente. L'alloggio. Non c'entra. No. Potrebbe entrarci una foto. Perché di fatto nella forma di bitto. Perché la steganografia utilizza dei veicoli per poter mascherare, come dire, il messaggio che io, Pippo, do a te, Ciccio. Senza che un terzo, Trippo, ne sappia qualcosa. Hai capito, Trippo? Perché Trippo, secondo me, è quello che si vuole fare il trip al posto dei due. Cioè, uno gli manda il panetto attraverso un altro. Col veicolo. Panetto di informazione attraverso un veicolo. Una panda. Metti il bitto nella panda. Se vuoi fare trippe e fagioli. Vabbè, insomma, comunque qua sempre da magnà si tratta. Ho capito, ma come fai? Come fai? Praticamente cosa faccio? Io nascondo all'interno di un file digitale, che può essere, che ne so, una foto oppure un suono, un MP3, un tipo, ogni tipo di messaggio posso fare. Con l'ausilio di un particolare software si prende appunto un'immagine e si estraggono alcune unità minime, dette bit, guarda caso, e in un bit ci può stare un'informazione diversa da quella che realmente mostra, cioè una porzione di fotografia. Ci posso mettere in un bit che può essere 8 o 16 bit, ci posso mettere, che ne so, un pezzo di informazione che voglio passare. Quindi io mando una fotografia o un MP3 a un mio amico, una terza persona dice: oh, che bello, gli sto mandando un MP3 a questo, voglio... E invece nel MP3 c'è un messaggio segreto. Ma scusa, ma va che lo facevano già da un pezzo, cioè io lo faccio, l'ho sempre fatta questa cosa. Sì, ma... Ma io lo facevo con i miei amici quando gli mandavo le canzoni di Masini. Bravo. Vaffanculo. E c'era sotto un messaggio. Però forse gli altri che ti sgamavano in quel, con gente che c'era il triplo, altri, che era il terzo che ti beccava. Invece qua in questo qui caso nessuno viene a sapere che io ti ho mandato un messaggio. Abbiamo solo la dipendenza dalla stagionatura del bitto, perché può e prendere varie sfaccettature. Signori, diceva bit. È il trucco che secondo me il nostro presidente del consiglio usato per il nostro... Chiaramente il nostro presidente del consiglio del gruppo Linux. È chiaro. È certo. Ecco. Allora, signor presidente del perché gruppo Linux. Perché tu, io sono il presidente, usi questi metodi, insomma. E chi te lo dice che questa puntata di Opencast non abbia un messaggio stenografato? E subliminare. Vota Antonio. A me un pezzo di bitto andrebbe, però. Allora, voi fate una cosa, decodificate col pane bartellinese tutto l'MP3 o Lodge Vorbis che scaricate da internet di questo Opencast e sostituite al 128esimo milione 492.000 e 693esimo bit e la lettera A, e troverete sicuramente una A dopo altri 45 bit la lettera C e dopo 6.834 bit la lettera Z. Dopodiché troverete il messaggio nascosto. Io mi sono perso. Io mi sono. Ma tu devi girare a destra prima. Lo dici solo io. Vabbè, la maschera poi ve la mando io per decodificare bene, perché 3 bit sono pochi. Quella con i cetrioli secondo me è perfetta, perché te mangi sto pezzo di bitto, ti fai i cetrioli, bello, esci purificato, cioè così, che giusto, no? Bello, giovane, col pezzo agile, di bitto non è che è proprio... Agile, bello, col pezzo di bitto. Dipende da cosa parti. Vabbè, cioè, il bitto se ne va, dipende da quanto se è ne stagionato. Va a 20 al chilo, pure di 25. Cioè, anche, in un'immagine da 10 megabit, cioè uno fa una foto, no? Da 10 megabit, oh raga, ma ce ne vuole tesoro. Qua la tecnologia sta diventando... E poi chi è che lo scarica? Quindi andiamo avanti. Andiamo avanti. Sblocchiamo questa situazione. No, l'argomento era molto interessante. L'argomento era molto bello. E secondo me dobbiamo passare dalla fresca alla frasca. Come sempre. Strano. E questa volta lo vogliamo dire a tutto il mondo che stiamo passando dalla fresca alla frasca, perché cerchiamo di creare un collegamento fittizio, come spesso accade, un hyperlink dei nostri. Si parlava di cibo. Il cibo che cos'è? Una risorsa per l'essere umano, bensì non ci sta in questo frangente, ma lo diciamo lo stesso, bensì, quindi io mangio e vado avanti. Ma l'essere umano non ha bisogno solo della risorsa cibo, ha bisogno anche di altre risorse. Un essere femminile. Beh, ho capito, cioè raga, però se stiamo a pensare sempre a quello facciamo un'altra roba. Cibo. Donna. Allora ti ricordo che nel nome del programma c'è cast, quindi cerchiamo un attimo di rimanere. Però c'è anche open. Cioè siamo aperti al cast. E tema della puntata sono anche i milioni di triangoli. Esattamente. Assolutamente, che il nostro beat fa sempre con segno della mano. Cosa vogliamo dire? Ragazzi, siamo in un momento difficile perché le risorse minerarie strategiche per il mondo intero, per la tecnologia, sono in Cina, e la Cina ha deciso di chiudere, ha detto: io oggi chiudo per ferie. No, non chiude tutta la Cina, però alcune miniere strategiche, per l'esattezza 7, vengono statalizzate dalla Cina, e riferendosi a dei accordi ONU che dicono che bisogna preservare risorse naturali rare come l'illirio. Bravissimo. Noi chiudiamo. Cioè, questa qua è una notizia, perché è passata un po' in sordina. Però, ragazzi, se noi abbiamo lo smartphone in tasca, se abbiamo il microprocessore di ultima generazione, se abbiamo quello, se abbiamo quell'altro, è anche grazie all'estrazione di questi materiali in Cina. Famose terre rare. Bravissimo. No extraction, no party. no party, parto. Me ne no PSP. Parte. No PSP. Cioè, ragazzi, sta PSP quando la fanno pagare alla fine, sta NGP, la fanno pagare con un mutuo praticamente, perché dico, cioè, vabbè il quad core GPU, CPU, però se poi non ci stanno le risorse per farlo, quanto lo fanno pagare? Secondo me non gliela fanno alimentarla, eh. Secondo me torna di moda il ColecoVision. Fatto da il ColecoVision, sì, sì, sì. Guarda, l'ho attaccato. Che? ColecoVision. ColecoVision. Tu lo attacchi, metti. E si sentono queste musichette tipo. Non me la ricordo più. Però era interessante. Poi la possiamo. Oh, ma che sistema operativo gira su questa nuova PSP? Non lo sappiamo, penso che sia sempre l'X, sì. L'X Media Bar della Sony, anche se all'inizio si vociferava che fosse un terminale unico cellulare. Però c'è una notizia correlata, effettivamente, all'inizio si diceva perché questa PSP dovrebbe avere Android, non l'hanno fatto. Tuttavia Sony ha deciso di portare alcuni vecchi giochi della PlayStation, del mondo PlayStation, quindi presumiamo PlayStation 1 più che altro, sull'Android Market, e questo darà una bella spinta sotto il punto di vista ludico ad Android, perché insomma potrebbero fare gola dei titoli seppur relativamente vecchi, però che ne so, un Tekken, piuttosto che mi vengono in mente Raiders, quella roba lì, insomma. Beh, insomma, il sistema operativo comunque questo Sony è un sistema molto molto collaudato, che non abbia difficoltà a maneggiare gli 8 core di questa fantasmagorica PlayStation nuova, insomma, che tutti quanti stiamo aspettando. E speriamo tuttavia non rimanga fantasma. Tuttavia ci sono altri sistemi operativi sul panorama mondiale, tipo Bada come parli, Bada quel che dici, come Bada, tu giovane. Bada. Giovane bit. Bada, sapete cosa vuol dire in coreano? Vuol dire mare. Ah. Vuol dire oceano. Pensavo volesse dire attenzione. Oceano. Coreano. No, vuol dire bada, vuol dire attenzione, cioè vuol dire no, vuol dire mare. Cioè, allora. Vabbè, sto Bada non è un sistema operativo, o meglio, sì, è un sistema operativo, è una piattaforma con architettura del kernel configurabile. Cioè, questo ci permette l'uso di un sistema operativo proprietario in tempo reale, i famosi RTOS, oppure direttamente del kernel Linux. Alcune macchine, alcuni cellulari, tipo il Samsung Wave di cui si parlava prima, fantasmagorica macchina, usa il codice di FreeBSD, NetBSD e OpenBSD, quindi di fatto è un BSD dipendente. Ma che è il supermercato sto BSD? No, no, BSD. Brianzoli supermercati... Quasi. No, comunque è flessibile, tant'è vero che viene utilizzato anche nelle televisioni di Samsung. Quindi diciamo che è un nuovo prodotto. Tra l'altro è arrivato alla versione 2.0. Ma ci sono programmi come Android, cioè come per Android. C'è un Bada Market ricco. Io l'ho sentito, cioè ne ho sentito molto meno parlare. Sì, avete ragione, non è un grosso market, però le applicazioni stanno crescendo di giorno in giorno. E adesso non ho in mente il migliaio, forse 2000 ne ha. Alcune a pagamento, alcune gratuite, sviluppate gratuitamente da appunto gli sviluppatori del sistema operativo. E anche quelle hanno la pubblicità dentro? No, non la pubblicità, assolutamente. No? No. Tra l'altro. Quelle di Android parecchio. Cacchio, non ce la faccio più io. No, perché questi si fanno pagare. Oh, e poi il BSD è sviluppato tutto in C++, quindi io e te possiamo scrivere quello che ci pare. Tu non hai idea delle minchiate che potrei scrivere? E come no? Io ne ho idea, assolutamente. E poi udite, questo, allora, scusate, cioè i rospetti, dalla versione 2.0, che praticamente è quasi uscita, uscirà forse a giorni, viene supportata la tecnologia NFC. Chi? NFC. Near Field Communication. Pensavo fosse non fate cazzette. Vista la piattaforma di sviluppo, cioè glielo dico, allora ragazzi, qua abbiamo un 5-6% di share market, ok? Quindi vediamo di non fare cazzette, assolutamente, perché qua ci perdiamo tutto. Già Android sale che fa paura, però la gente non si compra l'applicazione. Quello c'è l'altro, l'iPhone, sale pure quello, noi quindi insomma. No, ma il problema è che questo NFC è sviluppato da Philips e Sony, quindi mi accollegavo con la PS3 di tua che hai detto prima. Ma guarda un po', ma qua è tutto collegato. Abbiamo il collegamento e il collegamento. Insomma, cosa significa NFC? NFC significa Near Field Communication, vale a dire che io quando ballo con la mia ragazza in discoteca e siamo vicini, cioè entro un raggio di 4 centimetri, il mio dispositivo è il suo dispositivo. So cosa succede, sì. Lo so. Se sono più vicini, stanno diventando caldi. 4 centimetri. Sai cos'è? Esce l'antenna? Eiacula! No. Viene creata una rete peer-to-peer. Piri tu piri. Ma che fanno? Ed entrambi possono inviare e ricevere informazioni. L'importante è ricordarsi in queste occasioni in discoteca di mettere le protezioni. Vabbè, se fai una rete peer to peer con la prima che incontri rischi di avere delle malattie. Ricorda di portare la scheda serio. Ricorda di ricordare la custodia della tua SD, altrimenti. Un bel condom, metti un condom dentro la... Io mi chiedo, ma poi faranno dei corsi pre-ballo? No, parliamoci chiaro, cioè questa applicazione io la vedo in un modo solo. Te stai avvinghiato con una, a fine serata dici, ma cioè, perdete per un... A fine serata dice, oddio, ma quella quando me la ritrovo? Guardi sul cellulare e lui ti dice, ehi, l'ho preso io il suo numero. Io... Che cacchio te l'ha dato? Me l'ha dato il suo di cellulare. No, scusate, capito? Non solo il numero te frega. C'ho pure la fotografia. Ma adesso vi dico a che velocità c'è questo scambio peer-to-peer. Che velocità c'è? 424 kilobit al secondo. È la miseria. Cioè, praticamente fai tempo a fargli la foto. A foto del cellulare. A foto. Chi è Gianni? Tutto il contenuto quello del cellulare. Quello a cui gli è scritto il messaggio. Ragazzi, sei una ragazza poco per bene. Però non va bene. Potrebbe perché succedere. Io, cioè, so che ci sono, c'è la gente brutta. Io adesso, scusate, questa applicazione, poi mi vengono in mente tutte le applicazioni possibili. Questa applicazione, scusate il gioco di parole. Allora, sto in metro, ora di punta, c'è 200 persone addosso. Esci da sta metro e ti ritrovi. È il disco fisso pieno. Ti ritrovi sul telefono un botto di informazioni. Ma che cavolo sono questi? Numero di questo, numero di quello. Magari vedi una ragazza e dice, bella carina. Da vicino, no? Cerchi di stare un po' i famosi 4 centimetri, però c'è sta pure una nonna davanti. Questa dice, ma signora, porca miseria, con tutto il tempo che c'ha di fare shopping, sta cavolo di città, lei che mi fa, mi viene adesso in metropolitana, vabbè, poi si lamentano pure. E che magari mi trovo il numero della nonna. Pronto, ciao, scusa, sono quello della metro. Oh, che bel giovine, bravo. E ti volevo proprio chiamare anch'io perché il mio dispositivo mi ha dato il tuo numero, come sei carino. C'è anche... perché poi ti darà la foto, ti darà il tuo contatto su social network. Ragazzi, è mostruoso, buttate via. La potenzialità di questa cosa qua è un macello. Buttate via tutto. La cosa interessante è che la nonna ce l'aveva nell'anca, dispositivo. Aia. Sì. Tipo pistola la caccia fuori. No, proprio nell'anca. Tipo, vivo morto, tu verrai con me. Ha ragione, ma sai che questi l'NFC lo usano nei prodotti del supermercato, sai quelle ritanto trovi quelle spirali. Sì, quelle è near field communication. Pensavo fossero per le zanzare. Guarda un po', ma dove stiamo? Quindi anche senza batterie funzionano queste cose qua, capito? Cioè per prossimità tu lo avvicini e lui... Comunque ragazzi, io volevo dire solo una cosa, abbiamo scaricato LibreOffice, adesso facciamo tutti da beta tester. Dobbiamo farlo. Assolutamente sì. È il momento di LibreOffice. Ce ne parla Coso, prego. Io l'ho solo scaricato. No, adesso ce ne parli. Ma è solo bellissimo. Ora? No, sì, l'ho scaricato. L'ho scaricato da quando hanno fatto il fuoco. Arriva. E l'ho scaricato, carino, bellissimo. Tu lo apri. Amico del LibreOffice. Che OpenOffice. Cambiano le concine. Devo dire la verità. E anche il nome. Molta mucho il LibreOffice, amigos. Amico dello LibreOffice, scaricate finché Vamonos potete da BitTorrent. Però gli sviluppatori hanno promesso molta più velocità, una pulizia radicale del codice e sicuramente arriverà. Ho notato che è più snello. No, comunque ho notato che è più snello già dalla versione OpenOffice. Io adesso ho sotto la 3.2 su una macchina Debian e ho provato proprio oggi a scaricarlo e a installarlo e funziona veramente bene. Adesso proverò con quei 30-40 PC che ho a disposizione di far lavorare i vari utenti e vediamo se trovano bug o robe del genere. Comunque scaricate LibreOffice e buttate nel gesso OpenOffice. Visto che Sun ha fatto questo voltafaccia a tutta la comunità, io direi che è il minimo che possiamo fare per aiutare la comunità stessa. Caspita lì. È scialatissima la comunità, ragazzi, questa sera. E quindi veramente scellati. Ci scusiamo se ci siamo dilungati un po' in questa puntata, perché come sapete o come avrete intuito, noi siamo mossi da passione, da voglia di dirvele certe cose, voglia di farmele, da voglia di condividere con voi, con tecnologie strane, senza tecnologie, con vecchi mezzi, con nuovi mezzi, con quello che vi pare. Dammi vicino vicino, facciamo dialogare i nostri dispositivi. I nostri dispositivi, esatto. Oppure dialoghiamo noi e basta. Ragazzi, vi ricordo che il mondo è bello perché è vario e sopra la panca la capra canta e sotto la panca la capra. Crepa, i complimenti. Salutiamo tutti. L'avete preparata, eh? No, no, è venuto fuori così, sai. Cosa vuoi? Dopo tanto tempo che si fanno queste cose assieme, resta un po' professional. Viene fuori così proprio, no? Direi che possiamo concludere qua questa settima puntata, questo numero 6 di Opencast. Vi ricordo ancora una volta che sul nostro sito www.gl-como.it trovate tutti i link alle notizie e alle canzoni che abbiamo trasmesso. Questo è il proprietario di Sony che si fa sentire. Voleva dire qualcosa, signor proprietario di Sony? Oh, buona puntata, continua così. Grazie, grazie, molto gentile. Su questo i saluti, vi saluta Coso, vi saluta Loris, ciao, vi saluto ciao, io ciao. E vi saluta il nostro ospite misterioso che vi invitiamo a scoprire e inviarci un SMS al numero 338 42 72 935 268 99 66 82. Sì, Jack, Fante, donna, cavallo e re. Ok, va ancora bene. Ancora con sta storia del Fante. A posto così, arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Ciao. Avete ascoltato Opencast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del GL Como. Tutti i link e le puntate su www.gl-como.it.